senza il mio. Oggi nel giorno dell'addio, anche se inevitabile, mi chiedo ancora adesso, sono pronto a perderti, a rinunciare a te. Ma se ti